Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. La leggenda gli attribuiva già poteri sovrannaturali. Tutto ciò infastidiva Jim, che soleva battere il piede per la rabbia ed esclamare con una risatina esasperata: che cosa si può fare con questi idioti? Restano alzati fino a notte a raccontarsi stupidaggini, e più grossa è la panzana, più sono pronti a crederla. In questa irritazione si poteva cogliere la sottile influenza del suo ambiente. Era un aspetto della sua cattività. Era divertente sentire la serietà delle sue smentite, e infine dissi: mio caro, non penserà che io creda a queste fandonie? Ma no, suppongo di no, disse, e scoppiò in una risata omerica. Bene, comunque i cannoni erano al loro posto, e all'alba spararono tutti insieme. Per Giove, avrebbero dovuto vedere come volavano le schegge, esclamò. Al suo fianco, Dane Warris, che ascoltava con un sorriso, abbassò lo sguardo e mosse leggermente i piedi. Evidentemente il successo nel trasporto dei cannoni aveva dato agli uomini di Jim una tale fiducia da indurlo ad affidare la batteria a due anziani bugi che ai loro tempi avevano avuto esperienza di combattimenti e ad unirsi al gruppo di assalto di Dane Warris, che aspettava in agguato nel burrone. Si erano arrampicati in silenzio durante la notte e a due terzi della salita si erano fermati nascosti nell'erba bagnata in attesa della comparsa del sole, che era il segnale concordato. Mi disse di avere seguito il rapido arrivo dell'alba con grande impazienza e trepidazione, di avere sentito, accaldato com'era dal lavoro e dalla salita, il freddo della rugiada penetrargli nelle ossa, di avere avuto una tremenda paura di mettersi a tremare come una foglia prima che fosse l'ora dell'attacco. Fu la mezz'ora più interminabile della mia vita, dichiarò. A poco la silenziosa palizzata cominciò a stagliarsi sullo sfondo del cielo sopra di lui. Sparsi lungo tutto il pendio, gli uomini erano acquattati fra le pietre scure e gli umidi cespugli. Dane Warris era disteso, appiattito al suo fianco. «Ci guardammo», disse Jim, posando dolcemente la mano sulla spalla dell'amico. Mi fece un grande sorriso di incoraggiamento e io non osavo aprire bocca per l'ansia di essere preso da un tremito irrefrenabile. Parola mia, fu una cosa terribile. Quando ci fermammo ad aspettare, grondavo di sudore. «Così puoi immaginare», affermò, e gli credo di non aver avuto alcun timore per l'esito della battaglia. L'unica paura era di non riuscire a reprimere i brividi. Ricordo come a questo punto si sia fermato, con gli occhi fissi su di me. Disse che per quanto ne sapeva non aveva mai avuto motivi di pentirsi. Mai. E pregava a Dio che mai ne avessero. Nel frattempo, che tormento per lui, avevano preso l'abitudine di chiedergli consiglio su tutto. Non potevo nemmeno immaginare. Ma sì, proprio l'altro giorno, un vecchio scemo che lui non aveva mai visto in vita sua era venuto a trovarlo da un villaggio a parecchie miglia di distanza per chiedergli se doveva divorziare da sua moglie. Improvvisamente, la vecchia se ne va a prestare tre vasi d'ottone alla moglie del figlio della sorella e comincia a rispondergli male tutti i giorni facendosi sentire da tutti. I suoi nemici lo schernivano. Aveva perso completamente la faccia, i vasi assolutamente introvabili. Era veramente afflitto. Naturalmente Jim gli ha fatto riavere quei dannati vasi e ha calmato gli animi. Non è stato neanche difficile, naturalmente no. Gli bastava muovere un dito per sistemare la lite più violenta di tutto il paese. Il guaio era arrivare alla verità di tutte quelle faccende. Anche dopo tanto tempo non era certo di essersi comportato con tutti in modo equo. Ne era preoccupato. E le chiacchiere, per Giove. Si aveva l'impressione di non venire mai a capo di nulla. In qualunque momento era preferibile prendere d'assalto un bello steccato d'altezza di 6 metri. Molto meglio. Era un gioco da ragazzi rispetto a queste altre cose. Thank you. sua parola era come sacra dopo che aveva sbaragliato Sharif Ali. Una tremenda responsabilità, ripeté. No, veramente, scherzi a parte. Sarebbe stato lo stesso se invece di 3 stramaledetti vasi si fosse trattato di 3 vite umane. Quell'esempio dava la misura delle conseguenze morali della sua vittoria nella guerra, che erano state enormi. Essa lo aveva portato dal conflitto alla pace, e dopo aver sfiorato la morte, era arrivato al cuore della gente. Ma la tetraggine di quella terra così investita dalla luce solare conservava la sua secolare, misteriosa imperturbabilità. Jim e Dane Warris furono i primi a toccare la palizzata. La leggenda dice che Jim abbia abbattuto la porta toccandola con un dito. Naturalmente era ansioso di smentire tale impresa e si soffermava a spiegare come quello steccato fosse molto malandato. Sharif Ali faceva affidamento soprattutto sulla sua inaccessibile posizione e comunque la barriera era già stata fatta quasi a pezzi e stava in piedi per miracolo. Lui vi si appoggiò sventatamente con la spalla e quella cedette facendolo andare a gambe all'aria. Per Giove, se non fosse stato per Dane Warris, un bandito butterato e tatuato lo avrebbe inchiodato con la lancia a un asse di legno come uno degli scarabei di Stein. Pare che il terzo ad entrare sia stato Tambi Tam, il servo di Jim, un malese del nord che era capitato a Patusan ed era stato trattenuto con la forza del Rajah Alang come rematore di una delle sue barche di parata. Alla prima occasione era fuggito. E dopo aver trovato un precario rifugio e scarso cibo fra i coloni bugi, si era legato alla persona di Jim. Aveva la pelle scura, la faccia piatta e gli occhi sporgenti e iniettati di bile. C'era qualcosa di eccessivo, quasi fanatico, nella sua devozione al Signore Bianco. Era inseparabile da Jim, come un'ombra ostinata. Nelle cerimonie ufficiali seguiva passo passo il padrone con una mano sull'elsa del Kris, tenendo lontana la gente comune con le sue occhiate fonde e truculente. Jim ne aveva fatto il capo del suo seguito e tutta Patusan lo rispettava e riveriva come persona di grande influenza. Era evidente che il nemico aveva subito una disfatta. Doramin, che aspettava immobile sulla sua sedia sul fianco della collina con il fumo dei cannoni che si spandeva lentamente al di sopra della sua grande testa, ricevette la notizia con un profondo grugnito. Informato che il figlio era illeso e che stava conducendo l'inseguimento, senza emettere alcun altro suono, tentò di levarsi in piedi da solo, con uno sforzo immane. I suoi servi si affrettarono ad aiutarlo, e così, sorretto da mani rispettose, si portò con passo strascicato e grande dignità in un tratto in ombra, dove si sdraiò a dormire, coperto dalla testa ai piedi, da un lenzuolo di tela bianca. A Patusan c'era un'eccitazione straordinaria. Jim mi disse che dall'alto della collina, volgendo le spalle allo steccato e ai pali bruciati, alla cenere nera e ai cadaveri semicarbonizzati, vedeva di tanto in tanto gli spazi fra le case su entrambi i lati del fiume riempirsi all'improvviso di un brulichio di persone e altrettanto rapidamente svuotarsi. È stata una cosa immensa, immensa!» esclamò ad alta voce spalancando le braccia. Quel movimento inatteso mi sbalordì, come se l'avessi visto mettere a nudo i segreti dell'anima sua, davanti ai raggi del sole, alle cupe foreste, al mare d'acciaio. Sotto di noi la città riposava sulle sponde sinuose di un fiume la cui acqua pareva addormentata. «Immensa!» ripeté una terza volta con un sussurro rivolto solo a se stesso. Non c'era nulla all'orizzonte che si potesse paragonare a lui, come se fosse stato uno di quegli uomini eccezionali che si misurano solo dalla grandezza della loro fama. E la sua fama, ricordatelo, era smisurata in un'area che aveva un'estensione di giorni e giorni di viaggio. Si doveva passare attraverso la giungla su barche e canoe o lungo tratturi impervi e faticosi prima di arrivare a un luogo dove il suo nome fosse sconosciuto. E la sua gloria non era accompagnata dal suono di fanfara come quella che tutti conosciamo, la dea infida dai modi chiassosi e sfacciati, ma si intonava la quiete e all'oscurità di quella terra senza passato, dove la parola di lui era l'unica verità di ogni giorno che passava. Aveva qualcosa della natura di quel silenzio attraverso il quale vi accompagnava in profondità inesplorate, risuonava continuo al vostro fianco, inesistente, penetrante, pervasa di meraviglia e di mistero, bisbigliata sulle labbra degli uomini. Thank you. Lo sconfitto sceriffo li fuggì dal paese senza opporre più resistenza. E quando i miseri e perseguitati indigeni cominciarono a uscire cautamente dalla giungla per tornare alle loro cadenti case, fu Jim che con l'aiuto di Dane Warris nominò i capi villaggio. Divenne in tal modo il capo virtuale di tutto il paese. Il vecchio Tunku Allang venne colto lì per lì da un autentico terrore. In realtà, egli doveva la vita e l'autorità, che al momento della mia visita ancora gli restava, solo al senso di giustizia di Jim. I bugi si erano dimostrati estremamente vogliosi di regolare vecchi conti e l'impassibile vecchio Doramin accarezzava l'idea di vedere il figlio capo supremo di tutta Patusan. Durante uno dei nostri colloqui fece sì che io potessi avere un'idea di questa sua segreta ambizione. Affrontò l'argomento con una finezza e una discrezione straordinaria. Anche lui, aveva cominciato a dire, aveva usato la propria forza quando era giovane, ma adesso era vecchio e stanco. Anche lui, lo premetteva, aveva una fiducia sconfinata nella saggezza di Tuan Jim. Se solo fosse riuscito a ottenere una promessa, sarebbe bastata una parola. Cercai di sviare il discorso. Era una questione difficile perché era indubbio che il potere fosse ormai nelle mani di Jim. Nella sua nuova posizione non sembrava esserci nulla che non potesse ottenere o fare. Ma questo, lo ripeto, non era nulla rispetto all'idea che mi balenò mentre ascoltandolo mostravo di prestare grande attenzione alle sue parole, che infine Jim era forse arrivato ad essere padrone del proprio destino. Doramin era ansioso del futuro del paese e io rimasi colpito dalla forma che diede alle sue argomentazioni. La terra rimane dove Dio l'ha messa, ma i bianchi, disse, vengono qui da noi e dopo un po' se ne vanno via. Coloro che lasciano dietro di sé non sanno quanto devono aspettare il loro ritorno. Vanno nella loro terra, presso la loro gente, e così avrebbe fatto anche quest'uomo bianco. Non so che cosa mi abbia spinto a questo punto a un reciso no. No. Le conseguenze di questa rivelazione furono chiare quando Doramin, volgendo verso di me la sua faccia, la cui espressione, fissata nelle pieghe profonde delle guance, rimaneva inalterata come quella di un'enorme maschera bruna, disse che quella era veramente una buona notizia. Da quel momento il vecchio Nakoda divenne taciturno. Non era molto soddisfatto di ciò che gli avevo detto, temo, ed evidentemente gli avevo dato motivi per riflettere. Curiosamente, la sera di quello stesso giorno, che era il mio ultimo a Patusan, mi trovai ancora una volta di fronte alla stessa domanda, all'inspiegabile interrogativo sul destino di Jim. E ciò mi porta alla storia del suo amore. Suppongo pensiate si tratti di una di quelle vicende che si possono facilmente immaginare. Ne abbiamo sentite tante di questo tipo. La maggior parte di noi crede che non siano affatto storie d'amore. In genere le consideriamo storie nate da incontri fortuiti. Episodi di passione, nel migliore dei casi, o forse solo di gioventù e di tentazione, condannati a finire nell'oblio, pur passando attraverso la realtà della tenerezza e del rimpianto. È un'impressione giusta, per lo più, e forse lo è anche in questo caso, e tuttavia non so. Raccontare questa storia non è affatto facile, come ci sarebbe possibile, se il nostro solito punto di vista risultasse corretto. Apparentemente una vicenda in larga misura simile alle altre, ma nel suo sfondo io scorgo la malinconica figura di una donna, l'ombra di una crudele saggezza sepolta in una tomba solitaria che guarda tristemente, con un'espressione smarrita e le labbra sigillate. Questa tomba, in cui mi imbattei una mattina di buon'ora durante una passeggiata, era un tumulo bruno piuttosto informe, con un'ordinata striscia di rami bianchi di corallo alla base, racchiuso da una siepe circolare di arboscelli tagliati, ancora avvolti nella corteccia. Una ghirlanda di foglie e fiori correva tutto intorno, sulle punte di questi esili paletti, e i fiori erano freschi. Così che l'ombra sia comparsa veramente, o sia stata una mia fantasia, resta il fatto significativo di una tomba indimenticata. E se aggiungo che Jim stesso preparò con le sue mani quella rustica siepe, comprenderete subito la differenza, l'aspetto particolare della storia. In tutta la sua vita, la moglie dell'ineffabile Cornelius non ebbe altra compagna, confidente e amica che la figlia. Come la povera donna si sia ridotta a sposare quel piccolo, orribile portoghese della Malacca dopo la sua separazione dal padre della bambina, e come sia arrivata a questa separazione, se attraverso la morte, che qualche volta può essere pietosa, o per la spietata pressione delle convenzioni, è per me un mistero. Dal poco che mi aveva lasciato intendere Stein, sono convinto che fosse una donna non comune. Sono certo che la madre era donna quanto sembrava esserlo la figlia. Non posso evitare di raffigurarmi queste due, dapprima la giovane con la bambina, poi la vecchia con la ragazza. La tremenda monotonia, il trascorrere veloce del tempo, la barriera della foresta, la solitudine e il subbuglio attorno a queste due esistenze solitarie e il senso di tristezza che penetrava ogni loro parola. Immagino che si siano scambiate delle confidenze, non tanto sui fatti quanto, senza dubbio, su ciò che sentivano dentro di sé, cruci, timori, presentimenti. Presentimenti che la giovane non capì completamente finché l'anziana non morì. Ed ecco apparire Jim. Poi sono certo che la capì molto, non tutto, soprattutto i timori, direi. Jim la chiamava con un nome che indica qualcosa di prezioso, nel senso di pietra preziosa, Gemma. Bello, vero? Ma egli era capace di tutto. Sapeva tener testa alla sua fortuna come, dopo tutto, aveva forse saputo tener testa alla sua disgrazia. Gemma la chiamava e diceva questo nome come avrebbe detto Jane, capite? Con un tono quieto, familiare, coniugale. Sentii per la prima volta questo nome 10 minuti dopo il mio arrivo nel suo cortile, quando, dopo avermi stretto il braccio con una forza che quasi me lo staccava, volò per la scala e davanti alla porta, sotto le pesanti grondaie, cominciò ad emettere grida piene di letizia fanciullesca. «Gemma! Oh, Gemma, svelta! È arrivato un amico!» E volgendosi improvvisamente a fissarmi alla luce fioca della veranda, bofonchiò con viso serio. «Sa, questo non è un gioco. È impossibile capire quanto io le debba. E così capisce io, proprio come se...» I suoi sussurri frettolosi e preoccupati furono interrotti dal rapido balenare di una forma bianca dentro la casa, da una debole esclamazione e un visino infantile ma pieno di energia, dai lineamenti delicati, dallo sguardo profondo e attento, sbucò dal buio dell'interno come un uccello dalla nera cavità di un nido. Naturalmente fui colpito da quel nome, ma fu solo più tardi che lo collegai a una sorprendente diceria. Il giorno dopo, conversando casualmente con la piccola corte indigena locale, scoprì che lungo tutta la costa si raccontava la storia di un misterioso bianco di Patusan che era venuto in possesso di una gemma straordinaria. E precisamente di uno smeraldo di dimensioni eccezionali, così grande che non aveva prezzo. Lo smeraldo sembra affascinare la fantasia degli orientali più di qualsiasi altra pietra preziosa. Il bianco se n'era impadronito, così mi fu detto, in parte grazie alla sua forza sovrumana e in parte con l'astuzia, togliendolo al capo di un paese lontano, dal quale era fuggito all'improvviso. E pur essendo arrivato a Patusan in condizioni precarie, aveva terrorizzato tutti con la sua estrema ferocia, che non si arrestava di fronte a nulla. La maggioranza dei miei informatori era incline a pensare che probabilmente si trattava di una pietra maledetta, come la famosa pietra del sultano di Succanada, che nel passato aveva portato a quel paese guerre e indicibili calamità. Forse era la stessa. Chissà. Una gemma di queste misure, così mi fu detto da una specie di scriba del piccolo e derelitto rajah del paese, si conserva meglio celandola sulla persona di una donna. E non può essere una donna qualsiasi, deve essere giovane. Sospirò profondamente. È insensibile alle seduzioni dell'amore. Scosse la testa con aria scettica. E tuttavia sembrava che una tale donna esistesse davvero. Si parlava di una ragazza di alta statura che il bianco trattava con grande rispetto e attenzione e che non usciva mai di casa da sola. La gente diceva che la si poteva vedere insieme con il bianco quasi ogni giorno. Camminavano a fianco apertamente e lui la teneva sotto braccio, stretta al suo fianco, così, in un modo molto insolito. Ammetteva che forse era una menzogna perché era un comportamento molto strano e tuttavia non c'era dubbio che lei tenesse nascosto in seno il gioiello del bianco.